Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E anche oggi siamo andati a cercare due progetti sulla piattaforma di Eppela, ma li trovate tutti gli elementi anche sulla pagina di Si può fare dentro il sito di Radio 24, due progetti che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, il nostro aiuto, due progetti di crowdfunding. Iniziamo con il primo progetto, vai! Si chiama Giardinotto ed è il progetto di recupero di un'area verde in disuso che si trova nella circoscrizione 8 di Torino. I promotori del progetto vorrebbero restituire questi spazi alla città trasformandoli in un luogo di socialità ed inclusione mediante percorsi di agricoltura sociale. Per realizzare questo sogno servono 10.000 euro. E ce ne parla Elena Orzo Giacone dell'associazione MAIS. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, buon sabato. Benissimo, anche a te. Hai un minuto di tempo, poco più, per spiegarci come e perché possiamo sostenere questo progetto. Allora, i motivi per sostenerci secondo me sono mille, sono molto diversi, spero che ce ne sia uno per ciascuno. MAIS si occupa principalmente di due filoni di lavoro, uno è la promozione dei diritti umani, l'altro è la lotta alle discriminazioni. E spesso lo facciamo attraverso il mezzo dell'agricoltura, intesa come promozione al diritto al cibo, sovranità alimentare, ritorno all'agricoltura contadina. Abbiamo messo insieme tutte questi valori sui quali lavoriamo e nei quali crediamo in questo progetto, e i motivi per votarlo sono veramente tanti. Chi vuole lottare con noi contro le discriminazioni? Perché i beneficiari di questo progetto saranno principalmente persone segnalate dai servizi sociali, quindi con patologie psichiatriche, persone solitamente emarginate che avranno la possibilità di essere un po' reinserite nella società, di avere un luogo di aggregazione, di intraprendere un'attività che potrebbe poi rivelarsi anche remunerativa, comunque di ispirazione per dare una svolta alla propria vita. Ci può votare chi vuole promuovere l'agricoltura contadina, chi vuole riscoprire con noi un'area di Torino, insomma ce ne sono veramente tanti di ce n'è per bello. Tutti, ce n'è per tanti gusti. Grazie Elena. Quindi grazie. Un progetto di sensibilità a base ambientale, il prossimo progetto è a base teatrale. Sì, ma sempre... però posso dire sì. Che è perfetto a base ambientale, essendo oggi la giornata della terra e parlando del problema del consumo del suolo, loro oltre ad aiutare persone vogliono anche restituire spazi verdi alla città. Esatto. Non possiamo che ne esserne felici. Danno un piccolo contributo anche a questo. Intanto conosciamo anche Marisa da Savona, l'ascoltatrice, anche lei giurata di Crowd Me Up. Buongiorno Marisa. Buongiorno. Benvenuta. Tieni in caldo le tue parole per parlare con noi dopo però la rubrica, e resta in collegamento. E adesso andiamo a presentare quello che è il secondo progetto. Vai. Si tratta di Contatto, un teatro nel carcere di Lecce. Il nome in questo caso dice molto. L'idea è quella di costruire proprio un centro teatrale aperto a tutti proprio nel carcere di Lecce. Quindi uno spazio culturale che faccia da punto di contatto appunto tra liberi e reclusi. Se per supportare la prima fase di questo ambizioso progetto servono 10.000 euro. Ce ne parla Davide Tartaglia della piattaforma Archistart. Benvenuto, buongiorno. Ciao a tutti, buon sabato. Buongiorno. Ciao Davide, buon sabato. Ciao. Anche a te. Allora, naturalmente anche a te, un minuto di tempo, poco più, per raccontarci il come e perché sostenere questo progetto. Vai. Il contatto, come dice il nome stesso, è un po' la congiunzione tra due mondi oggi un pochino insomma alieni, che sono appunto città e carcere. La volontà è quella di realizzare il nuovo centro teatrale aperto della compagnia teatrale Io ci provo, che è una compagnia che lavora da anni a servizio dei detenuti, da come attori i detenuti stessi. E realizzeremo quindi questo nuovo centro teatrale aperto, che sarà uno spazio che sarà vissuto dalla città all'interno del carcere, quindi vissuto da tutti, in autocostruzione, che vedranno appunto le fasi proprio di contatto tra detenuti, i volontari che aderiranno alla nostra iniziativa, noi di Archistart che insomma supervisioneremo le attività. Realizzeremo insieme questo spazio. Ringrazio anche la compagnia Prospettive Teatrali che ha collaborato appunto comunque sia con noi, che sensibilizza ed educa i giovani verso appunto insomma il teatro, Realizzeremo appunto questo spazio Punto Insieme, che sarà uno spazio aperto alla comunità e non solo, diciamo, allo spazio carcerario. Bene, bene Davide, sei stato anche abbastanza nei tempi, anche tu pure, e quindi questa è la Contatto, teatro nel carcere di Lecce. Allora, è il momento dei nostri giurati. Introduciamo anche una terza giurata, Maria Teresa da Pordenone, insegnante elementare, buongiorno. Buongiorno. Cara Maria Teresa, anche te, se vuoi tenere in caldo le tue parole per dopo, intanto a tutti e tre, cominciamo da Tiziano, chiedo quale dei due progetti, Giardinotto o Contatto, il teatro nel carcere di Lecce, caro Tiziano da Bari, quale scegli? Diciamo che è un po' difficoltoso, sono tutte e due un po' a carattere locale, infatti sì. Avrei, diciamo così, valutato qualcosa di più ampio, come ampio respiro. Diciamo che per questione di parte sceglierei il pugliese come me, ma diciamo per una questione di amore verso la natura sceglierei il progetto. Giardinotto. Sta andando di nuovo via l'audio di Tiziano, evidentemente c'è una maledizione. Grazie comunque per aver... È un virus votato. Marisa da Savona, quale dei due progetti, base ambientale o base teatrale? Ma sono entrambi validi, perché oltre alla base c'è il sostegno alle persone carceranti, certo. Alle persone disabili. Io che faccio volontariato sono per entrambe, però considerando che è la giornata della terra, anche della terra profonda, io sono anche speleologa, darei il voto al primo. Ah, sei speleologa anche tu? Vabbè, ma allora abbiamo chiuso il cerchio. È la giornata della terra, proprio. Degli speleologi. Solamente... Esatto. Quindi un altro punto per Giardinotto, giusto? Esatto. È così. E siamo a Maria Teresa da Pordenone. Pensi di riequilibrare col tuo voto o anche tu ti schieri con la maggioranza a questo punto? No, anch'io mi schiero con il Giardinotto, perché penso che il contatto con la natura sia importante per ritrovare il nostro essere, per diventare migliori, ecco. Abbiamo tutti bisogno di un contatto con la natura. Hai sentito Elena Orso Giacone? Vincete grazie, voi grazie. Però un contatto con la natura, che in realtà è l'altro. Esatto. E quindi, caro Davide Tartaglia del progetto Un Teatro nel Carcere di Lecce, naturalmente noi nulla è perduto, no, anzi sono due progetti importanti tutti e due, e li trovate entrambi sulla piattaforma di Eppela, quindi non è che chi vince passa e l'altro progetto no, quindi a qualunque progetto siate interessati, andate sulla piattaforma di Eppela e, se volete, date il vostro contributo. Grazie a tutti. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.